di uscita, cerca un altro argomento di conversazione. È inutile tentare ancora, non c'è la soluzione. Ma quante volte hai già tentato e dopo hai rinunciato? Cerca un altro argomento di conversazione. A te sembra tanto facile di cambiare il mondo come vuoi, di cambiare come pare a te i pensieri della gente. Ma per me non è così, e dico non pensiamoci, ma cosa vuoi pensare? Ormai conviene più lasciare le cose come stanno, cerca un altro argomento di conversazione e dici sempre che fra noi qualcosa è poi rimasto. Io dico che cos'è rimasto, mi dici forse tutto, cerca un altro argomento di conversazione. A te sembra tanto facile di cambiare il mondo come vuoi, di cambiare come pare a te i pensieri della gente, ma per me non è così, è inutile parlare ancora di tutte queste cose. Se proprio si dovrà parlare, facciamo come dico io, cerca un altro argomento di conversazione, cerca un altro argomento di conversazione.